La rosa purpurea di Franco d'Assisi. Resistere, resistere, resistere. L'imperativo è noto, l'obiettivo è nuovo. Ha da passare a nuttata, come diceva il grande Edoardo, e noi resistemmo, parafrasando Totò. Ben ritrovati alla Rosa Purpurea, che da qualche settimana si è trasformata nell'ora di resistenza cinefila di Radio 24, un'ora per raccontarvi tutto il cinema che c'è da scoprire e riscoprire sulle piattaforme online, a pagamento ma anche gratuite, e per puntare il nostro periscopio su tutte le iniziative che sotto l'hashtag Io Resto a Casa stanno portando il sollievo di tanto buon cinema nelle nostre case in quarantena, in attesa che tutto finisca e si possa tornare a posare le terga sulle poltrone di velluto del luogo che amiamo di più. Anche questa settimana problemi di abbondanza, un paio di buoni film su Netflix, il secondo El Hoyo, The Platform, passato a Torino, anche qualcosa in più di buono, e ascolteremo l'intervista con il regista Galder Gazelurutia, le serie TV più cinefile come Homecoming su Amazon e lo sbarco in grande stile della piattaforma che tremare il mondo fa, Disney Plus, con le recensioni delle novità Lilli e il Vagabondo in live action e The Mandalorian, la serie spin-off di Star Wars. Infine è stata la settimana dell'uscita di A proposito di niente, la discussa autobiografia di Woody Allen. Ne parleremo con Elisabetta Sgarbi, che l'ha pubblicata in Italia, per ora in ebook, il cartaceo aspetta la riapertura delle librerie, con la sua Nave di Teseo. Insomma, tanta roba, noi iniziamo coi film, abbiamo detto due buone proposte su Netflix, la prima si intitola Ultras. Buongiorno. Documento. Ancora questo documento, appunto, siamo ancora a questo. Mamma mia. Noi siamo gli Ultras! Dirige Francesco Lettieri, fra i principali registi di video musicali, all'esordio in un lungometraggio di finzione. La storia di un capo ultra di 50 anni, costretto a guardare lontano dalla curva il rito domenicale della partita e forse a ripensare un po' se stesso e la propria scala di valori. Salutiamo Boris Sollazzo, in collegamento Skype. Ciao Boris. Buongiorno Franco e a tutti gli ascoltatori. Boris, il cinema si è occupato spesso della fenomenologia dei tifosi più estremi del calcio, basti pensare a film come Ultra di Ricky Tognazzi o, da una diversa prospettiva, All Cop Are Bastard di Solli, ma solo per citarne alcuni. Qui però il punto di vista cambia ancora fra personaggi fuori tempo e cattivi maestri. Sono tanti i meriti di Ultras di Francesco Lettieri. Intanto l'esordio di un regista che ha uno sguardo interessante, uno sguardo che al cinema italiano manca, perché il cinema italiano è ancora troppo ossessivamente figlio della dicotomia cinema d'autore, cinema popolare, e gli manca quel cinema medio che è necessario alla crescita sia industriale che autoriale. Per intenderci, quello che può essere un Solli, ma per quanto riguarda gli action, nel melodramma appunto potrebbe diventare Lettieri. Lettieri è il regista dei videoclip dell'indie italiano, quindi vari Calcutta, Tommaso Paradiso e quindi Quando c'erano i giornalisti, e Liberato, cantante napoletano con look da tifoso da stadio, cantante mascherato che non si è mai svelato nella sua identità, cantante che dà le sue canzoni come colonna sonora del film. Il film racconta un gruppo fittizio della curva partenopea, che sono gli Apache, capitanati da una serie di leader storici ormai cinquantenni. Uno di questi è impersonato da Aniello Arena. Il personaggio di Aniello Arena viene colpito da un DASPO, deve quindi andare a firmare durante la partita tutte le domeniche, e scopre, senza il calcio, senza lo stadio, quindi senza anche il suo gruppo degli Apache, che la vita può essere anche altro. Se ne accorge grazie ad Antonio Truppo, se ne rende conto grazie all'amore. E da qui parte una storia d'amore, appunto il melodramma, che si interseca con i valori anticavallereschi, ma con l'epica e la retorica degli Ultras, quel tipo di macismo, quel tipo di codice d'onore che viene ripetuto ossessivamente, quella solidarietà di gruppo. Tutto ha anche come sottofondo, diciamo, il racconto purtroppo reale di ciò che successe alla finale di Coppa Italia del 2014, quando morì Ciro Esposito. Non è un racconto di quella storia, però di sicuro uno dei protagonisti ha una storia molto simile. Ma conta poco perché quello che vuole fare Lettieri è raccontare una bella storia con dei codici molto precisi, raccontarla con una regia interessante e una sceneggiatura complessa ma lineare. Si parte da una chiesa con un matrimonio e si finisce con un funerale e raccontare un po' il febbre a 90 di un tifoso estremo. Cioè di come ci si può accorgere della vita attorno a te nel momento in cui però sei chiuso all'interno di determinate dinamiche. Il film funziona, ovviamente trascura tutta la parte forse più criminogena degli ultras, non ha il coraggio, ma forse neanche vuole andare a analizzare, no? Che cosa sono gli ultras anche come holding economica, criminale e via dicendo. E invece racconta tutta la parte sentimentale, emotiva, empatica e anche però tutta la parte più marginale e più estrema, oltre che il sodalizio maschile che rappresenta. In tutto questo funziona, lo racconta alla grande, funziona soprattutto per un pubblico come quello di Netflix. Peccato che non sia andato quei 3 giorni in sala, perché il film meritava, come qualità visiva, di finire sul grande schermo. Magari ci tornerà dopo questi pedimeo. E questo era Ultras. Boris, rimani con noi perché fra poco dobbiamo parlare di The Mandalorian, la serie spin-off di Star Wars, che è un po' la punta di diamante dello sbarco di Disney Plus. Adesso però cominciamo a giocare insieme. Anche questa settimana regaleremo 2 film in Blu-ray a 4 nostri ascoltatori che li riconosceranno dalle nostre tracce misteriose. Ecco la prima. Buongiorno a tutti i nostri astronauti dell'Antenna Spaziale Internazionale. È proprio una gran bella giornata, perfetta per tentare di contattare i nostri lontani vicini lassù nella volta celeste. Se avete già indovinato di che film si tratta, scrivete alla Rosa Purpurea @radio24.it con il titolo del film e il vostro indirizzo. Fra poco vi facciamo ascoltare un altro frammento. Ora linea alla regia, ci risentiamo fra poco per parlare di uno dei film più belli di questa stagione, grande schermo compreso. Si intitola El Hoyo, ha sbaragliato i festival di Toronto, Sitges e Torino, dove abbiamo incontrato il regista Galder Gazelu Urrutia. Fra poco. Radio 24 è sempre con te. Ci siamo sempre stati. E in questo periodo difficile continuiamo ad esserci. Anzi, ancora di più. Resta a casa. Noi pensiamo ad informarti con i nostri GR. Ad intrattenerti con i programmi in diretta anche in video. Con contenuti speciali creati apposta per te, che puoi ascoltare da casa tua quando vuoi. Scarica la nostra app o vai su radio24.it e scopri tutti gli approfondimenti, gli speciali, le dirette e i podcast esclusivi, sempre disponibili sulla nostra homepage e su tutte le principali piattaforme. Resta a casa con Radio 24. Noi ci siamo sempre. Radio 24. La passione si sente. Si sente. La rosa purpurea. Hay tres clases de personas: los de arriba, los de abajo, los que caen. El hoyo. Sí, el hoyo. ¿Y usted sabe en qué consiste esto del hoyo? Obvio. ¿Comer? ¿Qué vamos a comer? Lo que les sobra a los de arriba. Una piattaforma di cemento fluttuante nello spazio della tromba di un ascensore. Una prigione di oltre 300 piani, tutta all'ingiù, con un buco in mezzo, a pianerottoli affacciati, con vista a precipizio o, alzando la testa, paradiso e sopravvivenza. Ogni giorno la piattaforma parte dal piano zero imbandita di cibo preparato dai cuochi più sopraffini e scende, piano per piano, e a ogni sosta viene assaltata dagli abitanti di quella cella, che mangiano all'impazzata per 1 minuto. Poi la piattaforma scende al piano inferiore, sempre più sguarnita. A chi sta molto in basso spettano solo gli avanzi, e a volte neanche quelli. Un giorno Goring si sveglia al 33° piano di quella prigione. Di fianco a lui c'è un uomo anziano, Trimagasi. È uno sconosciuto ma sembra amico. Insieme cercheranno di sopravvivere in quell'incubo verticale, ma a quel livello, un buon piano dopo tutto, perché qualcosa si mangia sempre, resteranno un mese. Poi la direzione della prigione deciderà dove mandarli e se saranno piani bassi, per salvarsi la pelle, dovranno scendere a incredibili patti con la propria coscienza e imparare che in quella situazione nessuno può definirsi veramente amico. ¿Que era una persona? Pues claro que era una persona. ¡Es que nadie va a hacer nada! E l'Hoyo, The Platform, Il Buco, chiamatelo come volete, ma questo film, arrivato su Netflix da pochi giorni, è una vera rivelazione. Nello spazio filmico dell'incubo claustrofobico, quello dove abitano film come Cube, tanto per citare il più celebre, si incontrano Beckett e Marx, Kafka e Don Quixote, l'azione e la filosofia, il liberismo e il comunismo. E l'Hoyo è una metafora della società, dove chi sta meglio ha sempre più e divora tutto con il suo egoismo sfrenato, e chi arranca perde sempre più terreno, fino a morire dimenticato. Galder Gazelu Urrutia, basco di Bilbao, guarda dentro la metafora con la lente dell'ironia, ma coi colori dell'angoscia, dipinti dalla superba fotografia di Juan Dominguez, enfatizzata dalle musiche di Aranzazu Kalleja. L'incontro con Galder Gazelu Urrutia a Torino nello scorso novembre, a margine della proiezione in concorso al Torino Film Festival, parte da lì, dai tanti padri nobili di questa pellicola e dalla sua morale così contemporanea. Bueno, effettivamente, in questa pellicola abbiamo a Dante, a Beckett, a Orwell, a y Blade Runner también, y Taxi Driver también, y El Ángel Exterminador de Buñuel también. Y Don Quixote. Sí, y Don Quixote, y Don Quijote, por supuesto que también. La idea cómo nace, a ver. Questa è una idea originale. È un soggetto originale di uno dei due sceneggiatori poi del film, David De Sola. Era stato scritto per portarlo sul palcoscenico, doveva essere un'opera teatrale, poi in realtà non se ne è fatto niente. E David e anche Pedro Rivero, poi l'altro sceneggiatore, mi hanno passato questa sceneggiatura che è piaciuta molto, e l'hanno passata anche al produttore Carlos Juarez, a cui è piaciuta molto, per cui abbiamo deciso di farne, diciamo, un adattamento cinematografico. Nella sceneggiatura c'era tutta la simbologia, l'ideologia, c'erano i personaggi già ben sviluppati, però non era tutto sufficiente naturalmente per la trasposizione cinematografica, che prevedeva molto più dialogo, molto più approccio ideologico, poi l'evoluzione drammatica era diversa. Quindi quello che abbiamo dovuto fare è lavorare, applicarci duramente per ben 2 anni di lavoro durissimo, pieno di liti, e però alla fine ci siamo riusciti. C'è un elemento, un altro film che mi è venuto in mente, anche se molto diverso, che è I figli degli uomini di Cuarón, perché c'è l'elemento salvifico, c'è questa bambina che alla fine è ciò che si deve, ciò, è il messaggio, è quello che deve arrivare. Nel tentativo di tirar fuori la bambina, la metafora mi sembra essere quella del tentativo di applicare una logica di condivisione armata, che può far sembrare, può far ricordare quella dei regimi del socialismo di Stato, del comunismo, no? Allora ti chiedo, c'è questa tentativo di applicare, diciamolo così, il comunismo per arrivare alla salvezza? Bueno, la película tiene una crítica inicial o una exposición de lo que es el capitalismo más liberal. All'inizio del film c'è effettivamente una critica, diciamo esposizione pesante di quello che è il capitalismo, ma quello basato sul liberismo, che profitta di quello che è insito in ciascuno, nell'essere umano, nella natura umana, cioè l'egoismo, l'individualismo, e ne approfitta nel senso che lo struttura. E la strutturazione dell'egoismo è assolutamente una cosa negativa, perché aumenta le differenze, i gap tra i vari membri della società, livelli e così via. Però in realtà la distribuzione, diciamo, del cibo verso la fine del film, quando si prende la decisione effettivamente di cercare di distribuire nei vari livelli il cibo in maniera più logica o possibile, in realtà questa diventa anche una critica di quello che è il socialismo totalitario, però che impone la condivisione, diciamo così, e finisce per ammazzare molto di più di quanto lo possa fare quell'altro sistema. Quindi in realtà è una critica di come viene applicato qualsiasi sistema economico, politico, che strutturi quello che non deve strutturare, e in definitiva il fatto è che dipende da noi. Ma il vero messaggio, nel senso, e la vera vittoria, diciamo, del film è ciò che fa il protagonista, diciamo, Goring, alla fine, nel senso che supera il suo egoismo personale e elabora, e a un certo punto capisce cosa deve fare, tira fuori quel suo scheggia di generosità e fa finalmente quello che deve fare, cioè aiutare gli altri. E questo, se noi riuscissimo a farlo, fare ciò che dobbiamo fare, prendere coscienza individuale, non soltanto collettiva, probabilmente, forse, non so, sarebbe una soluzione. Che posso fare io ora? E lo hace. Ecco, una cosa che mi ha molto colpito nel tuo film è che potrebbe essere tranquillamente un film realista. L'unico elemento che lo fa diventare non realista è l'elemento della piattaforma, che non è tenuta da niente, è quasi fluttuante, galleggiante, no? Sale, scende, non ha corde, non ha pali, non ha una corsia. Perché questa scelta? Perché la scelta di far sì che questo elemento, l'unico elemento, non potesse in ogni caso rispondere a una realtà? Por varias razones. Uno, porque queríamos hacer una película de ciencia ficción y necesitábamos elementos fantásticos en la película. Per vari motivi. In realtà il primo motivo è il fatto che si tratta anche, originariamente volevamo anche fare un film di fantascienza, nel senso, ci sono tutti gli elementi fantastici della fantascienza, diventa in realtà un film di genere, diciamo, fantascientifico, già rappresentato dalla struttura stessa e dal fatto che chi la occupa, gli occupanti, accettano il dato di fatto, no? E questa piattaforma che si muove così, con supporto magnetico, fa anche parte del fatto che volevamo dare l'idea proprio della, insomma, metafora del, non solo della realtà, nel senso che in realtà in quella struttura si può soltanto scendere da soli. Se vuoi scendere, puoi scendere utilizzando la piattaforma, ma non puoi salire ai livelli superiori a meno di non avere l'aiuto di chi sta sopra. E quindi questa è la parte realistica, nel senso, se avessimo utilizzato corde, argani o qualsiasi altro, chiunque avrebbe potuto utilizzarlo per salire. E questo è quindi l'elemento fantastico, metafora del fatto che nella società tu puoi salire ai livelli sociali superiori solo se ti aiutano. Che era chiaro in questa película è che solo puoi subire nella classe sociale se hai alguien che ti echa una mano desde arriba. Galder Gazzelo Urrutia, il regista di El Hoyo, senz'altro il film da non perdere in questa settimana di novità sulle piattaforme. Noi invece torniamo a giocare insieme con la seconda traccia del nostro primo film misterioso di oggi. L'obiettivo era cercare vita extraterrestre intelligente. La nave scomparve circa 16 anni dopo l'inizio della missione. E chi era il comandante? Era mio padre, signore. Titolo del film, vostro nome, cognome e indirizzo, se lo avete individuato. Sveleremo il titolo prima della conclusione di questa puntata alla rosapurpurea@radio24.it. Parliamo di serie TV adesso, come facciamo dall'inizio di questo periodo di quarantena forzata. Vi segnaliamo con Ilaria Feole di Fil TV la serie a più alta concentrazione cinefila fra quelle a disposizione sulle piattaforme. Oggi da Amazon abbiamo scelto Homecoming. You were employed at the Homecoming Transitional Support Center? How do you feel? Happy. What we're seeking here is information. What were your duties there? I don't know. You don't know. Non è un'assoluta novità, è sulla piattaforma di Jeff Bezos da più di un anno, però con Julia Roberts protagonista e produttrice esecutiva, le stigmate del cinema ci sono tutte, e non sono le uniche, come ci spiega Ilaria Feole di Fil TV. Ilaria. Chi conosce Mr. Robot, la serie creata da Sam Esmail, sa bene quanto questo regista e showrunner ami un clima di paranoia e di cospirazione, e lo dimostra molto bene anche la seconda serie creata da Esmail su Amazon Prime Video dal titolo Homecoming, dove troviamo una peraltro bravissima Julia Roberts Roberts, invischiata nella tentacolare cospirazione di una multinazionale dagli intenti tutt'altro che positivi. È una serie che ha davvero il cinema impresso nel DNA, per la messa in scena avvolgente, per l'uso del formato piuttosto inedito per un prodotto seriale, per cui vedrete che i due piani temporali sono segnalati l'uno dal 16 noni, l'altro da un formato quadrato, neanche in 4 terzi, ma proprio 1:1. Ma soprattutto il lavoro fatto da Sam Esmail è sulla colonna sonora, perché per omaggiare, per evocare il cinema anni 70, i thriller cospirazionisti, il cinema di impegno civile che aveva in mente nel costruire questa serie, ha fatto sì che la colonna sonora fosse costruita quasi esclusivamente con brani prelevati da questi film, per cui dalla conversazione di Francis Ford Coppola, da Tutti gli uomini del presidente di Alan J. Pakula, da Vestito per uccidere di Brian De Palma e così via, chi più ne ha più ne metta, sono veramente tantissimi, film di John Carpenter, pezzi clamorosi di Pino Donaggio e di Ennio Morricone, veramente indimenticabili. L'effetto è davvero interessante perché vediamo il cinema scorrere sotto pelle a questa serie e devo dire le immagini costruite da Esmail non sfigurano al cospetto di queste colonne sonore, è un prodotto molto interessante, a tratti perfino ipnotico. Grazie Ilaria, linea ora alla regia, fra poco torniamo e vi portiamo a conoscere la nuova arrivata Disney Plus con le novità di The Mandalorian e Lilli e il Vagabondo e molto molto altro. In viaggio con Tommy è il podcast di Radio 24 che racconta l'autismo attraverso il diario della mia ricerca, assieme a mio figlio Tommy, di oggetti straordinari per un'iniziativa straordinaria, l'asta per i cervelli ribelli. Il nostro racconto sonoro si arricchisce ora di 3 puntate speciali in onda la domenica alle 18 per 3 settimane. Saremo poi con voi in diretta a parlare di neurodiversità il 2 aprile, giornata internazionale della consapevolezza sull'autismo, per uno speciale Melog, ma anche con il film che Sky Arte ha dedicato all'avventura che ho vissuto assieme a Tommy e altre persone sicuramente fuori dall'ordinario. La rosa purpurea. Hai fatto il tuo primo passo in un mondo più vasto. Potrebbe cambiare tutto. Sei pronta? Resteremo insieme. Finalmente. Si è presentata così Disney Plus il 24 marzo a tutti gli appassionati degli ormai molteplici universi Disney, che convergono tutti in un'unica piattaforma proprietaria, concentrando l'esperienza Disney in un solo luogo e costituendo la principale avversaria di Netflix, anche perché con le recenti acquisizioni Fox, ad esempio, è l'unica in grado di garantire l'infa produttiva costante al suo catalogo sia sul fronte della serie che su quello dei film. Disney Plus è una piattaforma facile, ci si iscrive, prezzo popolare, un anno a 69,90 euro, meno di 6 euro al mese. Si scarica l'app sul vostro dispositivo, o meglio ancora sulla vostra Smart TV, ed eccovi catapultati in una dimensione emozionante piena di suggestioni e legacy con il passato di ognuno di noi. Almeno così è stato a casa mia, dove almeno 3 generazioni, genitori, figli ventenni e figli decenni, sono rimasti mezz'ora a bocca aperta nello sfogliare il catalogo. Sono 5 i mondi principali che Disney Plus propone allo spettatore. Disney, con tutto il patrimonio storico della casa di Burbank, da Topolino ai classici del cartoni in 2D, Pixar con i film in 3D e CGI che hanno cambiato la storia dell'animazione, Marvel con tutto l'universo supereroistico della label americana, Star Wars con l'intera saga e tutti i suoi spin-off e per finire National Geographic con le perle documentaristiche più spettacolari ma anche originali e serie TV. Da ognuna di queste 5 basi si diramano esperienze di cinema che comprendono classici, originali, lungometraggi e serie TV che non basta un anno per vederle tutte. E tenete conto che il catalogo verrà costantemente aggiornato con recuperi storici e novità. Fra queste spicca come punta di diamante del listino la nuova serie The Mandalorian, spin-off di Star Wars. Nel mondo c'è più pace dopo la rivoluzione? È deplorevole che la sua gente abbia sofferto. Ma il cacciatore di taglie è un lavoro molto difficile. Mandaloriano, guardi fuori. Sono pronti ad attenderla. Ah sì? Bene. Disponibili al momento i primi due episodi, di durata molto compatta per la serialità televisiva, 40 minuti il primo, 33 il secondo, come dire, niente fronzoli, tutta ciccia. Per darvi l'idea dell'attesa, c'è gente, giuro, che a dicembre, quando Disney Plus esordì in Olanda, partì alla volta di Amsterdam per vedersela sul computer. Scritto da Jon Favreau, regista di Iron Man e Re Leone, per citare solo i più noti, The Mandalorian è la storia di un cacciatore di taglie senza nome né volto, non toglie mai la maschera, taciturno e pragmatico, che si muove in uno dei terreni meno esplorati dell'universo di Star Wars, gli anni di vuoto tra il ritorno dello Jedi e il risveglio della forza. Il Mandaloriano ha un compito, ma siccome gli viene affidato alla fine del primo episodio, dove c'è già un cliffhanger degno di nota, noi non ve lo diciamo e ci facciamo raccontare quel che si può da Boris Sollazzo. Boris. The Mandalorian è probabilmente una delle sorprese di questa stagione di serialità televisiva. Questo perché c'è in qualche modo un pregiudizio inevitabile su tutto ciò che la nuova il nuovo universo Star Wars, no? Quello che, con cui siamo ripartiti negli anni 90 e che già aveva visto un prodotto televisivo. Questa è una serie di nuova generazione, una serie fatta finita, uno spin-off che parla di un cacciatore d'Italia che all'inizio non avremmo mai immaginato protagonista di una sua storia a parte. E si interseca tra l'inizio dell'instaurazione del primo ordine e la fine dell'impero, cioè in quella fetta temporale. Ed è una sorpresa straordinaria, perché soprattutto nella prima parte della stagione The Mandalorian ha davvero una fortissima capacità di scrittura, a livello probabilmente delle cose migliori viste nella saga di Star Wars. Ha un universo visivo molto molto potente, che non perde nella riduzione al piccolo schermo e addirittura alla piattaforma streaming, anzi in qualche modo trova una nuova forza nel nuovo mezzo, e poi ovviamente trova quello che con Lucas si era sempre cercato e scoperto, cioè quel personaggio che in qualche modo diventa iconico di una trilogia o anche di un singolo film. In questo caso è questo Baby Yoda che ha rotto tutti gli schemi anche di gradimento del pubblico, perché per i suoi caratteri quasi teneri è diventato uno dei personaggi preferiti dell'intera saga per il pubblico femminile, e allo stesso tempo il pubblico maschile nostalgico e che in qualche modo aveva forse anche bisogno di una backstory per questo personaggio fondamentale, iconico, ma che in fondo poi si esaurisce abbastanza in fretta nell'arco dell'universo narrativo globale, si ritrova ad essere soddisfatto. La serie peggiora, ma anche perché non poteva tenere quel livello altissimo, nella sua seconda parte della stagione, probabilmente perché spara talmente in alto e alza talmente tanto l'asticella che poi fa più fatica a tenere botta, ma rimane comunque una delle cose migliori che abbiamo visto per appassionati di Star Wars, ma anche per chi non lo è. Grazie Boris per averci raccontato The Mandalorian, ci sentiamo la prossima settimana. Alla prossima settimana e buon cinema! Tra poco passiamo all'altra grande novità family di Disney Plus, il live action di Lilli e il Vagabondo. Ora però giochiamo di nuovo insieme, con la prima traccia del nostro secondo film misterioso di oggi. Perché io stasera parlo, io dico tutto. A 60 milioni di italiani, io dico tutto. Come sempre, titolo del film, nome, cognome, indirizzo, alla Rosa Purpurea, @radio24.it. Se avete già indovinato di che film si tratta, vi ricordo che ci sono due copie in Blu-ray che vi aspettano e che fra poco vi proporremo un altro frammento. E lasciare si vuole nell'incanto della notte. È dolce sognarsi, cantava nel 1955, quando Lilli e il vagabondo uscì nei cinema di tutto il mondo. Fu un successo clamoroso, il più roboante dai tempi di Biancaneve e i Sette Nani, e anche il primo film in Panavision di casa Disney. E la sequenza di Lilli e Biagio, che condividono un piatto di spaghetti e polpette, che culmina in un bacio tenero e accidentale, è considerata una scena iconica nel cinema americano. Adesso la casa di Burbank affida alla sua nuova piattaforma il lancio del remake in live action, che si inserisce nel filone che ha già regalato le versioni dal vero di film come La Bella e la Bestia, Aladdin e Il Re Leone. E allora facciamoci raccontare questo Lilli e il Vagabondo da Chiara Pizzimenti. Come te lo spiego? Tu sei il sole per i tuoi padroni, no? Certo. Io non ho guinzaglio, nessun recinto. Con me ogni giorno è un'avventura. Non è film per cui servano presentazioni. Chi non conosce Lilli e il Vagabondo, protagonisti di uno dei classici più classici di casa Disney? Sono sempre loro, ma questa volta in carne e ossa, come ormai abitudine per lo studio di Topolino, che sta riproponendo in versione live action praticamente tutto il suo patrimonio. Come nel cartone del 1955, Lilli, Lady nella versione inglese, cagnolina di casa elegante e vezzeggiata, finisce in strada, dove conosce Biagio, il vagabondo, impegnato da sempre a guadagnarsi ogni giorno la sopravvivenza. Oh, qui è tutta un'altra cosa. Finirà per essere cane di casa anche lui, capace di apprezzare le gioie della famiglia, con l'amore suggellato dalla scena entrata nell'immaginario collettivo, quella del bacio alla fine dello spaghetto. Stasera per Biagio quanto di meglio abbiamo! Va bene, Don, sei tu il padrone. Ora dimmi che ti vado a mangiare. Alla carta, prego. Ah, ho capito. Ehi, Joy! Biagio dice che vuole due spaghetti speciali con polpettine di carne, va bene? Non poteva mancare questa in un film in cui dell'originale non manca niente. Ne è fotocopia allungata nei tempi e sottoposta a restyling. I gatti non sono siamesi ma restano insopportabili. Qualche cane cambia sesso e soprattutto Gianni Caro e Tesoro, i padroni, sono una coppia interrazziale. Difficilmente immaginabile nel sud degli Stati Uniti a inizio Novecento. Di buono in questo live action ci sono i cani, reali e modificati al computer, che suscitano più empatia di quelli del cartone. E c'è la consueta perfezione Disney, anche quando i mezzi e il budget sono limitati rispetto ad altri film. Rimane però sempre il dubbio sulla effettiva necessità di rifare alla lettera i film, considerando che le scene più belle sono quelle rimaste identiche. Un usato sicuro, insomma, ma anche una pellicola che è un invito all'accoglienza e cade a fagiolo con il suo inno a casa e famiglia in tempi in cui lo stare a casa è un ordine più che un invito. Grazie Chiara, Lilli e il Vagabondo su Disney Plus. Linea alla regia per l'ultima volta, fra poco cambiamo decisamente clima e vi portiamo nelle atmosfere newyorkesi del più grande comedian del cinema contemporaneo, ma anche di uno dei più grandi umoristi di tutti i tempi, Woody Allen, con la sua autobiografia A proposito di niente. Ce la racconterà l'editrice italiana del libro, Elisabetta Sgarbi. Ogni nostra storia, piccola o grande, racconta di una linea. Una soglia oltre la quale siamo passati, a volte senza accorgercene, altre dopo mesi o anni di lavoro. Linea d'ombra non si limita più a raccontare i vizi capitali, ma tutte quelle storie che hanno segnato un confine nella nostra vita. Scrivetele in una o due pagine e inviatecele a lineadombra@radio24.it. Noi le prendiamo e ci costruiamo intorno a una puntata. Linea d'ombra di Matteo Caccia. Da lunedì al venerdì alle 15 e il sabato alle 21.30 su Radio 24. La rosa purpurea. La colonna sonora di Midnight in Paris ha un sapore newyorkese, come tutto il cinema di Woody Allen, anche quando si svolge lontano dalla Grande Mela. Un sapore che adesso rivive, pagina per pagina, nell'autobiografia del regista di Manhattan, A proposito di niente, edita in Italia dalla Nave di Teseo, disponibile da pochi giorni in ebook, per il momento, fino a quando le librerie non riapriranno e apparirà anche la copia cartacea. (Musica) Nelle 400 pagine del libro Woody Allen ripercorre tutta la sua vita, dal ragazzino di Brooklyn tutto baseball e gangster, li amavo alla follia, racconta, al regista affermato, passando con disinvoltura dai suoi amori artistici, pittori, registi, drammaturghi, a quelli fisici, donne e mogli, dedica il libro a Sunny. Fino alle accuse, vale la pena dirlo, mai provate in sede giudiziaria, che lo hanno messo all'angolo ma mai abbattuto, provocando anche il repentino cambio di editore in America a pochi giorni dalla pubblicazione, con Hachette che lo rifiutava dopo averlo voluto e il concorrente Arcade Publishing che raccoglieva il regalo e si appresta a trasformarlo in oro. È consistente la parte del libro nella quale Allen prova a smontare pezzo per pezzo anni di accuse nei suoi confronti, ma non è di questo che vogliamo parlare qui alla Rosa Purpurea. Preferiamo concentrarci sul cinema, sulla nascita di un genio, su un Woody Allen che si autodefinisce un non intellettuale, un misantropo ignorante e patito di gangster. Ne parliamo con Elisabetta Sgarbi, che ha accolto il libro di Allen a bordo della sua nave di Teseo ed è in collegamento Skype con noi. Ciao Elisabetta, fa un po' specie questa definizione di non intellettuale, se si pensa invece a quanto il suo cinema abbia saputo svolgere proprio una funzione intellettuale di fotografia della società nevrotica contemporanea. La solita autoironia, che ne pensi? Che ne penso? Io sono rimasta sorpresa nel leggere le pagine di A proposito di niente, la sua autobiografia, e mi sono molto divertita. Poi, ripensandoci, mi sono detta che ha ragione lui. Woody Allen, io credo, appartenga alla sfera dei geni che non hanno bisogno di essere intellettuali e colti. Mi viene in mente quello che diceva Carmelo Bene. Il genio, diceva, fa quello che deve, risponde a se stesso senza alcun pregiudizio culturale. Capitolo primo. Adorava New York. La idolatrava smisuratamente. Ah no, è meglio là. La mitizzava smisuratamente. Ecco. Per lui, in qualunque stagione, questa era ancora una città che esisteva in bianco e nero e pulsava dei grandi motivi di George Gershwin. Non fammi cominciare da capo. Capitolo primo. New York era la sua città e lo sarebbe sempre stata. Nel libro c'è anche il sottofondo costante della New York che abbiamo imparato ad amare e a conoscere dai suoi film, dura, a volte spietata, frenetica, ma con improvvisi e ampi slanci di poesia, come le mattinate a bigiare al MoMA, dove nasce il suo amore per i classici del cinema. Però l'idea che matura nel lettore è che Allen sia stato influenzato da New York, ma anche New York sia stata un po' modellata nell'immaginario collettivo dall'immagine che ne ha voluto dare Allen, non trovi? Io credo che una città sia una città, ma anche un simbolo. La componente simbolica, peraltro, è importante e questa la creano solo i poeti. Il cinema, se penso agli anni d'oro di Allen, era la fabbrica dei sogni, quindi la sua New York possiamo dire che sia un sogno, ma un sogno tanto vero che diventa realtà. E leggendo l'autobiografia ci si rende proprio conto di questo amore di Allen per New York fin da piccolo. Lui proiettava se stesso a Broadway, frequentava le redazioni dei giornali, andava ai concerti, gli piacevano le strade di New York, andava nei musei. Non ha fatto che cantare questo amore tutta la vita, come Petrarca ha fatto con Laura. Grazie per avermi invitato per il mio compleanno, Sidney. Beh, in fondo sei la figlia che non ho mai avuto. No, no, scherzo. Io non ho mai voluto dei figli. Sul serio, perché uno fa i figli e poi che succede? Cioè, tu sei carino con loro, li allevi, soffri, ti occupi di loro e alla fine crescono e ti accusano di aver l'Alzheimer. Elisabetta, una domanda personale. Qual è l'elemento nuovo di Woody Allen che ti ha rivelato questa autobiografia? La cosa che non sapevi o che non conoscevi così? Ma io devo dire che ero vittima del suo stereotipo, della sua malia, se così la vogliamo chiamare, perché Allen ha creato il personaggio di se stesso e anche questo fa parte dell'essere poeta. Anch'io l'ho sempre visto con la lente dell'intellettuale ebreo, lui dice, perché porta gli occhiali con la montatura nera. L'ebreo newyorkese che ama la letteratura, il cinema europeo. Invece, nella sua autobiografia mi ha rivelato il suo lato più libero, più selvaggio e quasi feroce, potrei dire. A cominciare dalla dedica che sta tutta proprio in questa sua aderenza a una vita semplice, vitale. E così, insomma, mi ha sorpreso il suo vitalismo. Nella dedica, letteralmente, lui dice: I had her eating out of my hand and then I noticed my arm was missing. Cioè, lui dice: io la nutrivo, la dedica a Suni, con la mia mano e poi, letteralmente, mi sono reso conto che il mio braccio non c'era più. Ovviamente è un'espressione idiomatica e quindi il traduttore dice a Suni, la migliore, pendeva dalle mie labbra e poi mi ha avuto in pugno. Ecco, questa è una dedica poetica, l'altra è più aderente al reale, come se la voracità di questo amore gli avesse fatto perdere proprio quel braccio che nutriva la sua amata Suni. Hai mai avuto modo di incontrare Woody? E se sì, che ricordo ne conservi? Ma io ho incontrato Woody Allen due volte, l'ultima nel 2007, eravamo a Venezia in occasione della pubblicazione di un altro libro molto bello, Pura Anarchia, e mi ricordo che nella hall dell'albergo dove stava Woody Allen mi accolse sua moglie Suni, ed era molto molto cortese. Poi scese Woody nella hall e siccome avevo rotto veramente le scatole al suo management, perché dicevo: ma non è possibile che un editore italiano non possa consegnare al proprio autore la prima copia del libro, qualche cosa di questa mia insistenza doveva essergli arrivata all'orecchio, e quindi quando mi vide mi disse: sornione, alla fine ce l'ha fatta a consegnarmi questa copia. E che amassi i libri, e in particolare i suoi, lo si vedeva da come teneva in mano Pura Anarchia. Mi invitò poi all'anteprima del suo film, La delegazione ufficiale, cosa che ho apprezzato davvero molto. Un'ultima domanda, Elisabetta: a chi e perché consiglieresti questo libro? Solo cinefili o anche... Ma io consiglierei questo libro di Woody Allen, a proposito di Niente, che abbiamo pubblicato alla Nave di Teseo, soprattutto ai non cinefili, perché Woody Allen è uno scrittore vero e naturalmente nel solco di una letteratura umoristica. Io ho pubblicato molte autobiografie di registi, Friedkin per esempio, e a settembre invece pubblicherò quella di Oliver Stone, ma per Allen, Woody Allen, siamo molto oltre, perché i suoi libri sono pura letteratura, e direi che questa letteratura che emerge dalla lettura di questo suo bellissimo libro è la letteratura nel senso della felicità, della forza primigenia, dell'autenticità di quello che è la letteratura vera. E quindi lo ameranno tutti, ma proprio tutti quelli che amano la vera letteratura. È cominciato il film? Sì, ma solo da 2 minuti. Chiuso? Niente, beh, io non posso entrare. 2 minuti, Al. No, mi dispiace, ma non posso. Il cinema è già saltato, io lo sai. Io non posso entrare a metà. A metà? Hai perso i titoli di testa, sono in svedese. Prendiamo un caffè per 2 ore o qualcosa? Grazie Elisabetta Sgarbi, a presto. Grazie a te, grazie a voi, grazie a Rosa Purpurea. Tra l'altro è il titolo di un film di Woody Allen, è un film che ricordo molto bene. C'era anche Mia Farrow, e speriamo tutti di vederci presto e di ascoltare insieme un bellissimo brano, una canzone, Merendine Blu, degli Extra Liscio, una ventata di energia in questo periodo difficile. Grazie Rosa Purpurea, grazie. Elisabetta Sgarbi, con la sua Nave di Teseo, ci ha raccontato l'autobiografia di Woody Allen. Adesso noi giochiamo di nuovo insieme, perché è arrivato il momento di ascoltare la seconda traccia, il secondo frammento del secondo film misterioso di oggi. La musica, Galeotta come fu il libro per Francesca, avvolge i due compagni d'arte di vita ed essi danzano ancora insieme. Non mi ricordo più niente. Due steps, poi di profilo, walk e segui me. Come sempre, se avete indovinato, la rosa purpurea @radio24.it, il vostro nome, cognome e indirizzo, e fra pochissimi istanti sveliamo i nostri due film misteriosi della giornata. Facciamo un salto indietro. 7 giorni fa avevamo giocato con Cena con Delitto. Signor Blank, io so chi è lei. Ho letto il suo profilo sul New Yorker, l'ho trovato incantevole. Ho appena sepolto mio padre all'età di 85 anni dopo che si è suicidato. Perché lei è qui? Riccardo Morotti di Vaiano, provincia di Prato, e Matteo Porrino di Bologna sono i nostri due ascoltatori che per primi hanno individuato Cena con Delitto. Lo riceveranno in una bellissima versione Blu-ray che ci facciamo raccontare da Giulio San Giorgio di Fil TV. Ciao Giulio. Ciao Franco, un saluto ai radioascoltatori. 10 piccoli parenti serpenti, una cena per l'85esimo compleanno dell'abbiente capofamiglia, un delitto che sembra un suicidio, ma non lo è, un investigatore con l'aplomb sorgnone di Daniel Craig a sbrogliare il giallo parodiando il suo Bond e onorando Poirot. Il delitto è servito in versione extra large, 130 minuti, con cast stellare adattato ai malatempora di questo 21esimo secolo. Rian Johnson, enfant prodigio del cinema Stelle e Strisce, dopo il suo discusso episodio di Star Wars, torna con un film gran public che è un ottimo sostituto a una bella partita serale di Cluedo in questi giorni di clausura. Ottimo video a esaltare il grande lavoro sul dettaglio di scenografo e costumista, ottimo audio e 2 intense ore di materiale extra. E 7 giorni fa avevamo rispolverato anche un grande classico del cinema europeo come Paris, Texas di Wim Wenders. I due uniti vivevano come se tutto fosse una bella avventura, una gioia continua. Anche andare insieme dal droghiere o dal fornaio era fantastico. Questa volta i più bravi e veloci sono stati Rosaria Marino di Napoli e Maurizio Scala di Milano, che riceveranno il Blu-ray, nuova edizione, con tanti contenuti speciali in più, di Paris, Texas. Giulio. Sì, per presentarvi questa edizione di Paris, Texas vorrei rileggere delle parole che Gianni Amelio scrisse per Film TV qualche tempo fa. In Paris, Texas, gli avvenimenti che stanno alle spalle di Harry Dean Stanton, quando viene trovato più morto che vivo in pieno deserto, sono volutamente oscuri, non c'è una biografia del personaggio. La sola idea di partenza di Wim Wenders e Sam Shepard è l'apparizione di uno sconosciuto in un posto assurdo già dal nome. Quello che accade in seguito è una cronaca apparentemente depurata di ogni eccesso, anche emotivo. Il titolo è molto bello, ci si domanda tante volte da dove nasce un film, se da un'idea originale, da un trafiletto di 6 righe o da un romanzo. Paris, Texas è nato dalla carta geografica. Ecco, questo film è editato in versione 2K restaurata a partire dagli internegativi e degli interpositivi 35 mm da Ripley Homes Video, etichetta assolutamente necessaria del panorama home video italiano, arricchita dal dettagliato commento audio di Wim Wenders, inclusi 20 minuti di scene eliminate dal montaggio definitivo e un bellissimo booklet introdotto da un pezzo di Giovanni Spagnoletti. Una segnalazione, Giulio, anche dalle piattaforme in streaming messe a disposizione da tante istituzioni durante questo periodo di quarantena. Avevamo già parlato dell'operazione della Cineteca di Milano, è da lì che abbiamo scelto La legge della tromba di Augusto Tretti. Sì, sono molto contento di segnalare in questo spazio La legge della tromba, film bellissimo di un regista sconosciuto come Augusto Tretti, disponibile sul sito della Fondazione Cineteca di Milano. 5 poveri diavoli, spinti dal bisogno, organizzano la più audace delle rapine. Vengono arrestati, evadono un minuto prima di un'amnistia, si fanno assumere da un industriale che poi delocalizza la fabbrica. Girato tra il 57 e il 60, stroncato dalla critica, scarsamente distribuito, amato da nomi importanti dalla A di Antonioni alla Z di Zurlini, è veramente una cosa mai vista. È l'esordio di Tretti, riscoperto solo in anni recenti, film girato come un muto, doppiato in senso sfacciatamente antirealista, con una traccia sonora per buona parte simile all'onomatopea bambinesca che non ha una ricerca del verosimile, per dire il suono del carro armato è clac clac clac clac clac, è interpretato da non professionisti, tra cui Maria Boto, che è la cuoca di casa Tretti, in travestì in 4 ruoli e poi fa anche la parodia del ruggente ma sdentato Leone MGM. È un film comico e dunque un film che sforma la forma abituale del cinema e lei ride. È un atto d'amore per una classe lontana dall'ideologia del capitale e destinata pasolinianamente alla scomparsa, ed è una satira irruente e un passo dal carnevale. Grazie Giulio, ci sentiamo la prossima settimana. Ciao Franco, e alla prossima settimana con le segnalazioni casalinghe di Film TV. E non ci resta che il tempo di annunciare i nostri due film misteriosi di oggi. Abbiamo giocato con Ad Astra, con Brad Pitt e con Ginger e Fred di Federico Fellini, entrambi in versione Blu-ray. La prossima settimana annunceremo i vincitori, come sempre alle 18, qui su Radio 24, il sabato, nella nostra ora di resistenza cinefila che continua. Stiamo insieme tutta la settimana sulla nostra pagina Facebook. Un abbraccio a distanza e un saluto da Franco D'Assisi.